Thank you.

questo primo pezzo si chiama Biforismo Urbano o Biforismo Metropolitano, ed è un pezzo che esce fuori da un quinto lavoro di questo gruppo che si chiama Maledetti. E il progetto che sta dietro questo lavoro è un progetto o un pretesto, se volete, di fantapolitica. Cioè, la storia la racconto brevemente, la storia dei prossimi tre pezzi nascono così. Noi abbiamo visto da musicisti un mondo futuribile senza memoria, cioè esiste una specie di materia gelatinosa in una custodita in una banca svizzera, dove per un tragico guasto il mondo rimane senza memoria. Noi sappiamo che la memoria oggi in una società come la nostra è forse fondamentale. Un mondo senza memoria, abbiamo tre ipotesi che sono i tre pezzi che vengono adesso. Abbiamo la, tra l'altro sono tre organizzazioni di potere differenti. Abbiamo il primo pezzo che si chiama Gerontocrazia, è che il l'organizzazione del potere da parte degli anziani, che non è neanche, neanche futuribile, è una realtà. Il secondo pezzo si chiama SCUM, il potere da parte delle donne. SCUM significa società per tagliare il c agli uomini. Ed è un manifesto di 10 anni fa. E evidentemente si può fare, come dice Dario Fo, giustamente, anche dell'umorismo nel clima che è abbastanza triste. Il terzo pezzo che interessava a noi, il terzo pezzo, almeno il terzo concetto, è l'organizzazione del potere da parte dei bambini. Noi oggi si parla dell'arte, della musica, invece cioè, tutto piano piano muore, cioè rimane l'unico artista che è il bambino. Perché? Perché il bambino è il dominio di fantasia e garanzia di libertà. In questo pezzo bambini e bambine vanno con i genitori a fare un picnic e si mangiano i genitori per colazione. Perché? Questo sostanzialmente, questo bambino, che va trattato con rispetto secondo noi, questo bambino, bambine e bambini, nella nostra, almeno nella nostra musica, i bambini non hanno più il complesso del pisello e le bambine non hanno più le angosce fra le cosce. Questo che si chiama Gerontocrazia, inizia con una Nina Nanna del 1600 ed è una Nina Nanna secondo noi bellissima. Appartiene all'Asia Minore, dove il vecchio, l'anziano, per addormentare il bambino, usa l'oppio per reprimerlo. È una cosa strana, ma è vero. Cioè, continua tutto il giorno a buttare dei pallini di oppio sul bambino, sperando che il bambino dorme tutto il giorno. Questo pezzo comincia con una Nina Nanna, ed è un pezzo molto delicato, e è cantato in lingua originale, dove a un certo momento avviene uno sdoppiamento di voce. Dopo il ciclo della Nina Nanna, all'inizio e alla fine la voce si sdoppia. Oh, Nella pare che tu don... Thank you. questa società, per bene che ci vada una vita e una gloria. Sconfinata! In questa società nulla, assolutamente nulla riguarda le donne! Dunque! A tutte le donne che non hanno paura delle responsabilità, delle emozioni sconvolgenti, non rimane che rovesciare il governo, eliminare il sistema monetario, istituire l'automazione completa e distruggere il sesso maschile. Thank you. 1973, sul Corriere della Sera, arrivò una notizia di 200 studenti massacrati all'interno del Politecnico di Atene. Questo prossimo pezzo prende lo spunto, ma non solo perché l'università è una specie di campanello d'allarme, ed è una cosa importante, ma per parlare di questo fatto. Abbiamo qui un ritmo mediterraneo che non è il ritmo della discoteca, e abbiamo un testo in lingua originale. Abbiamo scelto la lingua originale perché era più aderente per la musica, per andare alle radici della musica che ci appartiene, sostanzialmente la musica mediterranea. Quindi questo pezzo parla di lotte universitarie contro regimi chiaramente fascisti come quello dei coloni. Come Taros. Thank you. amore. Nel 1920 un compagno tedesco fece una cosa incredibile. dirottò da solo una nave. Questo qua faceva il pittore di mestiere, ha chiesto alle autorità tedesche di andare in Russia a partecipare a un congresso di pittori. I tedeschi gli dissero naturalmente di no, lui incazzato dirottò. E questa favola si chiama La mela di Odessa. Thank you. Thank you. siamo dimenticati di raccontare che la... preso l'abito chiaramente, la mela, l'abito più rosso. Mise l'abito più rosso. Salì. Invece la foglia salutò. Rientrò dal mare e nessuno lo vede più. Se tu credi che il mondo sia piatto, allora sei arrivato alla fine del mondo. Invece se credi che il mondo sia tondo, allora sali. Perché fra poco incomincia un giardino! Qui siamo 5 più 3, abbiamo Fariselli piccolo, indiano, Zaganello al mixer, noi siamo, lui lavora all'impianto, abbiamo Patrick che guida il camion, che fa, ci dà un po' di candela, un po' di luce sul palco, Patrick. C'è Giorgio, in questo momento non c'è, sempre in giro. E questo pezzo si chiama Gioia e Rivoluzione. Canto per te. Che mi viene a sentire. Suona. per te che non mi va a capire. Rido per te che non sa sognare.